Siamo con Michela Greco per fare un bilancio anche con lei dell'annata cinematografica 2018 e per sentire quali sono i suoi cinque preferiti tra i film usciti in sala. Michela, ben trovata. Ciao, grazie, ciao, ciao. Senti, sì, allora come bilancio, vabbè, dico una banalità, naturalmente quest'anno sicuramente è stato quello in cui si è sentito forte il grande cambiamento, no, delle piattaforme, ha cambiato proprio il mercato, cioè quest'anno ci sono almeno una manciata di grandi film, di film importanti che non erano destinati solo al grande schermo, ma sono arrivati sulle piattaforme. Ovviamente Roma è stato, si può dire, di Guarone, il film dell'anno, perché insomma Leone d'Oro, unanimemente acclamato dalla critica, ma poi anche dei film importanti come Sulla mia pelle, Il caso di Stefano Cucchi, e anche un film che secondo me è stato molto trascurato, che è quello di Paul Greengrass, 22 luglio, sugli attentati di Breivik, che anche lui stava alla Mostra di Venezia ed è andato su Netflix, credo con un passaggio solo tecnico piccolissimo in sala. Quindi insomma, grossi film che stanno andando non direttamente sul grande schermo, secondo me è un cambiamento interessante, cioè è inutile resistere a questo cambiamento, certo è sempre meglio vedere un film al cinema, però stanno succedendo cose molto interessanti. Sì. E nello stesso tempo quest'anno secondo me è stato interessante vedere il ritorno a grande cinema di almeno due grandi registi che magari avevano un po' perso colpi recentemente. Uno, per esempio, l'ho messo nella mia top 5, che è Paul Schrader, che questo First Reformed, che fra l'altro mi pare che non sia neanche lui uscito al cinema, First Reformed con i Tanook, ma è andato direttamente in un video, e che è, secondo me, io non esito a dire che è un capolavoro questo film, perché è ricchissimo, è perfetto dal punto di vista formale, con un rigore clamoroso, e dice delle cose potentissime. Nel film c'è Tanook, che è un pastore, qui come fa sempre Paul Schrader parla di solitudine, di colpa, di redenzione, ma dice delle cose fortissime sull'essere umano, ma anche fortissime sul mondo in cui stiamo vivendo, perché c'è un discorso molto forte sulla religione, sulla spiritualità, ma anche sul pericolo che stiamo tutti correndo da questione ambientalista. Cioè io, se ci ripenso a questo film, ho veramente paura che il mondo finisca domani, perché effettivamente i segnali ci sono tutti, e questo film lo dice in modo molto forte. E quindi ecco, Schrader era da un po' che secondo me non azzeccava un film, invece qui ha fatto veramente qualcosa di clamoroso. Penso che l'abbiamo visto in pochi, quindi insomma consiglierei tantissimo di vederlo. E un altro regista che è tornato alla grande, che non ho messo nella mia top 5, però ci poteva benissimo stare, Spike Lee. Secondo me il suo Black Lantern è È tra i miei veramente. cinque, è tra i miei cinque, Vedi? sì. Allora non è un caso. È un film veramente riuscitissimo da tutti i punti di vista, cioè dal punto Sì, di vista sì, sì. di quello che vuole dire senso politico, dal punto di vista formale, è divertente. C'è una sceneggiatura meravigliosa, degli attori perfetti per quello che ci vuole raccontare. Quindi, insomma, dei bei ritorni di registi comunque di grande talento, che magari ultimamente non avevano fatto delle cose meravigliose. E poi, oltre al film di Paul Schrader, gli altri miei quattro film sono L'isola dei cani di Wes Anderson, che ormai è uscito praticamente quasi un anno fa, però io non me lo sono dimenticato, perché secondo me è un capolavoro. È un capolavoro dal punto di vista formale, perché è in stop motion, realizzato con una ricchezza di idee, di fantasia, di creatività incredibile, fortissimo dal punto di vista politico, perché naturalmente qui la storia dei cani randagi è molto facile e anche molto giusto riportarla a una metafora di tipo politico, e dice delle cose molto belle, tra l'altro. E non lo so, questo secondo me è un film che dovrebbero vedere e rivedere grandi e piccini, e forse pure questo è stato un pochino, cioè non è, insomma, è stato trattato bene dalla critica, ma forse secondo me non abbastanza. Poi vabbè, Roma pure io, insomma, l'ho dovuto mettere in questa cinquina, perché Madonna già è uno dei, secondo me, dei più grandi registi contemporanei. Qui ha fatto un film film meraviglioso, penso che lo pensiamo tutte, ed è incredibile come sia riuscito a mettere tanta passione, cioè è riuscito a fare un capolavoro per tutti, nel senso che arriva a tutti raccontando una storia personalissima, credo che questa sia la cosa più intima, più personale che lui abbia mai fatto, cioè un bianco e nero meraviglioso, una qualità formale, vabbè, che ha sempre avuto Cuarón, ma Cuarón ha sempre fatto anche qualcosa spesso spettacolari, qui invece non c'è spettacolarità, ma c'è la spettacolarità delle emozioni, dell'umanità, che riesce a fare veramente un film che parla a tutti. E poi io ho messo due film italiani molto diversi, uno è Dogman di Matteo Garrone, che qui Garrone è un grande regista, qui ha fatto uno, secondo me, dei suoi film migliori, secondo me data anche dell'imbalsamatore. E vabbè, c'è la recitazione di Marcello Fonte, c'è un racconto di una storia personale, ma anche di le atmosfere rimandano. Rimandano all'imbalsamatore, sì. Sì, esattamente. Credo che ci siano anche delle location che sono le stesse in parte. Mm-hmm. Da quel posto poi che Salvo il turno parla da solo, insomma. Niente, il film racconta, oltre a quella storia lì, racconta veramente in che stato siamo, no? Come paese, sicuramente un paese in cui molte zone sono lasciate all'abbandono, al degrado, e molte persone rimangono indietro, quindi poi qualcuno deve sempre, la necessità, dopo essere colpito da tutte le parti, di farsi giustizia da solo. E poi un altro film italiano che io ho adorato, e questo, ecco, secondo me se ne è parlato poco, è Sembra mio figlio di Costanza Quadriglio, perché Costanza Quadriglio è, secondo me, una delle voci più importanti e interessanti che abbiamo nel cinema italiano. Stava al Festival di Locarno, secondo me sarebbe stato bellissimo anche alla Mostra di Venezia questo film, e anche qui racconta meravigliosamente una storia personale di due fratelli afghani che cercano la madre che non vedono da tanti anni, ma poi raccontano la storia della loro etnia, no? Della minoranza azzara, che è una minoranza perseguitata da sempre, e quindi è una storia che parte ai confini da tutti i punti di vista, cioè annulla i confini geografici, sentimentali, dove la regista ha un controllo totale della storia, sia dal punto di vista formale che narrativo. Costanza Quadriglio proprio ha una enorme consapevolezza del racconto, che è cosa che purtroppo non tutti i registi, soprattutto italiani, hanno. Quindi mi dispiace che si sia visto poco questo film, spero che ci possa essere occasione di riparlarne e rivederlo di più. Senti, tra questi qui, Spike Lee, quella di Spike Lee, quindi è una menzione? È una menzione, sì, perché l'ho adorato e Lo rivedrei altre 100 volte, però non lo so, ma l'incuore l'ho tenuto buono. Ok, perché... Bene, bene. Allora, i tuoi ce li hai dati. Michela, un abbraccio e a risentirci presto. Speriamo di vederci in sala e auguri. A presto, auguri anche a te. Ciao.